Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mi siete mancati da morire, ben ritrovati, sono Carlo Genta, Giorgio De Luca è il nostro autore, lui c'era, io ho avuto qualcosa da fare settimana scorsa, ma ci sono Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Primo caso da ombrellone che ci accompagnerà per l'estate, ovviamente quello di Donnarumma, la nazionale Under 21 ieri ha vinto 2-0 con la Danimarca e siamo tutti fiduciosi, avremo un grande ospite dopo la borsa, parleremo di tutto questo e di altro ancora fino alle 15.30. Intanto ieri atteso, secondo me c'è un'attesa spropositata, manco fosse il Papa o Trump, per le parole di Mino Raiola, ha risposto oggi anche il Milan, e cioè Fassone. Allora, cominciamo, abbiamo già un grande ospite in linea, vi voglio però far sentire prima un paio di voci, cioè la versione di Raiola e quella di Fassone. Raiola ha parlato di Donnarumma, lui voleva restare a Milan ma si è affidato a me, sentiamolo. Gianluigi era disposto a rinnovare con Milan, è sua idea, perciò io dicevo noi non andiamo via parlando zero, perché Gianluigi nella sua testa non aveva nessun dubbio. Ci hanno forzato da quel punto di vista, poi lui ha detto sì, sinceramente Mino, io non la sento di fare una trattativa o di dover accettare delle proposte in questo ambiente, visto anche quello che sta succedendo ai miei, a mia famiglia, a me stesso. Faccio un esempio molto importante, un piccolo esempio ma molto importante: striscione sotto la sede del Milan, una società seria per me difende il suo giocatore, tira via striscione. No, tra l'altro ieri sera, episodio più unico che raro, un giocatore della nazionale contestato dal Milan Club Polonia. Secondo me è stato strano, Donnarumma e lancio di dollari all'entrata in campo del portiere, in quel momento vestiva la maglia della nazionale, ma di questo parleremo. Secondo me è stata anche una contestazione civile, tendenzialmente non ci vedrei nulla di male, perché Donnarumma doveva essere un simbolo. La risposta di Fassone a Raiola. Io devo dire che tutte le volte che ho parlato personalmente con Donnarumma, ancora l'ho sentito l'ultima volta 2 giorni prima che Raiola venisse a trovarmi, ho sempre visto negli occhi, ho sentito al telefono la voce, lo sguardo di un ragazzo innamorato del Milan e che avrebbe voluto rimanere qui. Immagino che la decisione finale sia stata presa con Gigio, che l'ha un po' tra virgolette subita, che sia una decisione di business presa da Raiola, che è bravissimo, che è attentissimo soprattutto all'aspetto dell'ottimizzazione, della massimizzazione dei ricavi che possono derivare dal trasferimento di un giocatore. Ma dentro di me, dentro il mio cuore, resta ancora forte il sospetto che forse Gigio avrebbe sperato un finale diverso e che, chi lo sa, magari la vita ci riservi qualche sorpresa. Allora, Pardo arriva subito dopo il traffico, intanto abbiamo Andrea D'Amico, noto notissimo, principe del Foro dei Procuratori. Ciao Andrea. Ciao Carlo. Senti, ma secondo te, voglio sentire anche la vostra, poi 800240024, questa storia, lui voleva rimanere, Raiola vuole portarlo via, è un ragazzino di 18 anni, fa bene ad affidarsi al procuratore oppure no? Secondo me non è neanche una cosa così sconclusionata. No, fa assolutamente bene se ha fiducia in Raiola. È chiaro che il rapporto agente giocatore è un fattore di successo per qualsiasi tipo di trattativa, e questo, parlavate prima di ombrellone estivo, è un ombrellone bello grande, perché comunque è un caso molto importante per quanto riguarda il calciomercato, sia certo, dalla parte del giocatore sia dalla parte del Milan. Ma sai, qui probabilmente, anche perché, amico da mio, come la vedi Carlo, ognuno può avere le sue ragioni. È chiaro che da fuori è difficile difficile dare una visione completa, perché poi ci sono delle dinamiche che vanno oltre l'aspetto economico, che riguardano poi dopo, non so, le trattative, i comportamenti, sì, e tutto. Sì, sì, sì, sì. Io dico solo una cosa, che comunque era chiaro che il Milan avesse bisogno di ripartire da questo. Certo, era un simbolo, no? Era un simbolo della ricostruzione, era il simbolo del nuovo Milan. Sono un po' come quei quadri ottico-cinetici che comunque ti sposti e cambiano la prospettiva, perché dalla parte del Milan ti verrebbe da dire un nostro prodotto, un giocatore che abbiamo creato noi, a cui abbiamo dato una chance importante noi, lo stiamo ricoprendo di soldi e quindi ci aspettiamo riconoscenza. No, ma quello sai, che poi, Andrea, è la voce dei tifosi. Andrea, dalla sai cosa? Cambia la proprietà dopo Berlusconi, cambia la proprietà, è chiaro che era il simbolo del nuovo Milan, poi metti tra due anni e va via, e anche questa è una domanda che ti voglio fare, perché è una cosa che non mi torna. Sentiamo altre due voci. Allora, il Milan ha minacciato di non far giocare Donnarumma la prossima stagione. Raiola, lui si è sentito anche la mancanza dell'appoggio del Milan. Io credo che sia un fuoriclasse in squadra e non vuole rimanere, a meno che da il suo supporto tecnico e aiuta la squadra facendo quello che deve fare, il suo mestiere, e non minacciandolo di stroncare la carriera, non giocare. Allora, Fassone, se qualcuno è andato oltre e se Gigio è stato oggetto, come Raiola ha raccontato, di minacce o di qualcosa di grave per lui o per la sua famiglia, non solo mi dissocio, ma condanno fortemente, come tutto il Milan e come credo tutti i tifosi del Milan, atteggiamenti che vanno al di là di quello che deve essere consentito. E ho assicurato Raiola, assicuro Gigio, che come società faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità sotto questo aspetto per proteggerlo, rassicurarlo e rasserenarlo. Allora, questa è l'altra versione, Andrea D'Amico. Cioè, questa è la storia. Il Milan, secondo me, si parla. Poi avremo ospite l'avvocato Grassani che ci chiarirà tutto. Il Milan dice l'anno prossimo potrebbe non giocare. Ma sai, succede a tanti, no? Non dimentichiamo il caso di Pandev, che si liberò dalla Lazio andando poi a vincere il triplete con l'Inter. Sì, però attenzione, perché lì non lo facevano neanche allenare in prima squadra, se non ricordo male. Sì, no, ma è chiaro, perché lì c'è stato un collegio arbitrale che poi dopo ha prodotto una risoluzione contrattuale per inadempienza, in qualche modo per colpa. Ma guarda, ti dico, un po' tutte le società tendono a tutelare i loro investimenti. È chiaro che se uno la volesse guardare dal punto di vista della società, dice no, ma a quel punto lì io faccio un'altra scelta, valorizzo un giocatore che comunque può essere un mio patrimonio sociale, quindi faccio giocare lui. Quindi questa è una storia che, da come la guardi, chiunque può avere torto e ragione, da una parte o dall'altra. Sì. È molto delicato, molto, molto difficile. È chiaro che un atteggiamento mercantile, visto che io faccio questo lavoro, e comunque il Milan era chiaro che doveva tenere questo grande portiere, o certo, ha provato di tutto per tenere questo grande portiere, al di là dell'ottica salariale normale, perché è un po' come se, sai, quando ti offrono un giocatore così importante a parametro zero, sei sempre disposto a pagare un salario molto, ma questo molto è chiaro, più elevato, questo è chiaro, che sei disposto a pagare se glielo infatti adesso, avendolo già tu. Adesso quindi, chiunque voglia Donnarumma e va lì con i soldi al Milan è una mancia, perché quanto può valere adesso Donnarumma? Quanto può un club che vuole Donnarumma oggi? Ti ha 20 milioni, ti ha 15 e ti accontenti. Comunque ti dico, è una mancia. Per il valore che ha il giocatore, indubbiamente per il giocatore è zero rispetto a quello che comunque può avere un giocatore, ma questo vale anche per i grandi giocatori, i grandi attaccanti. Sì. Quando si avvicinano alla scadenza di contratto, il loro valore patrimoniale diminuisce. Certo. È chiaro che dal punto di vista così sentimentale, i tifosi si aspettano anche forse un gesto del giocatore, però è una vicenda troppo complicata e anche interessantissima, ma è anche molto interessante. C'erano anche abbastanza interessi e soldi per far contenti forse tutti, per far contenti i tifosi, no, ma per infatti, far contento ma, il sai, giocatore, Andrea, per far io, allora quello che ti dico io è questo. Quello che ti dico io è questo. Il Milan ti dice ti do 4 milioni, non sono noccioline, ti do 4 milioni, facciamo sto contratto. Sei l'idolo, sei insomma il simbolo del nuovo Milan dopo l'era Berlusconi. Stai lì un paio d'anni. Poi te ne vai, poi vediamo, non avrebbe avuto pressioni, giocava titolare ovviamente, tutto quanto. Allora, si dice che Raiola, cioè si dice, come sappiamo bene, Raiola guadagna un sacco di soldi, tu lo sai meglio di me, nello spostamento dei giocatori contrattualizzati, giocatori alla Pogba, tanto per dire. Io fossi stato in Raiola in Donnarumma, avrei accettato la proposta del Milan, poi a 18 anni, tra due anni, vediamo. No? Mi sbaglio? Questa è una delle possibili opzioni assolutamente ragionevole, però bisogna vedere appunto quali sono le alternative che il professionista ha in mano, quali sono i rapporti che comunque sono intercorsi tra le persone che hanno negoziato. Ci sono tante valutazioni. È chiaro che sembrava una cosa abbastanza, come posso dire, non dico facile, ma comunque a volte quando c'è questo livello di valore di mercato, i soldi poi passano in qualche modo in secondo piano. Anche secondo me questa era la cosa più ragionevole, più logica. Probabilmente si è incastrato c'è qualcosa che non ha funzionato all'interno di questo processo decisionale. Ma tu credi alla leggenda metropolitana secondo cui Raiola farebbe un dispetto al Milan per il suo amico Galliani che non è più lì? No. E io penso che qualsiasi bravo procuratore faccia prima di tutto soltanto gli interessi dei giocatori. E quindi penso che anche in questo caso le valutazioni di Raiola vadano in questa direzione. Non mi permetterei di pensare nient'altro. Un'altra cosa. Andrea, ti ringrazio, ci sentiamo grazie. Prestissimo. Grazie Andrea. Andrea D'Amico, dunque ci fermiamo per il traffico, c'è già Antonio da Pavia, 800240024, arriva Pardo, arriva l'avvocato Grassani, così chiariamo mobbing o non mobbing e ne parliamo insieme. Tutti convocati. Allora, prima che cominci la litania degli ascoltatori che chiamano l'800240024, fanno i complimenti per il programma e poi ci salutano, un saluto particolare a Pardo. Prima che cominci questa litania, lo faccio io un saluto particolare a Pardo. Dimmi almeno che ti sono mancato. Mi sei mancato, ma ti ho sentito ieri pomeriggio. Però, sì, è chiaro. Però mi fa piacere, grazie per il saluto particolare. Però facciamo anche un saluto a gente, dai, non particolare. È un particolare normale. Adesso, tra l'altro, è in linea un mio concittadino. No, stavamo parlando con il nostro amico D'Amico della vicenda Donnarumma. Stai sentendo? È interessante, un sacco di risvolti interessanti. Tra poco parliamo con l'avvocato Grassani insieme, Pier. Antonio, buongiorno. Buongiorno a lei, gente, salve. Salve, un saluto particolare a Pierluigi Pardo, sì, dica. Io volevo dire che non lo so, elevare i calciatori spesso a ruolo di esempio, no? di persone esemplari per altri è sbagliato. Ma sì, tutti, ma chi lo fa? Tutti i giudizi morali che sono stati dati su Donnarumma, insultato anche sui social, in un paese in cui abbiamo centinaia di miliardi di evasione fiscale. Guardi, vabbè. Mi sembrano davvero fuori luogo. Sì, guardi, sui social poi succede tutto. Ieri c'è stata questa particolarissima contestazione, ha fatto il giro del mondo, a Donnarumma da parte del Milan Club Polonia. Secondo me è stata anche una contestazione divertente, che magari in Italia sarebbe stata molto più violenta, ma questo argomento lo affrontiamo dopo con un personaggio importante della Federcalcio. Prima saluto l'avvocato Grassani. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, le faccio sentire le parole di Raiola sul comportamento del Milan che il procuratore definisce mobbing. C'è il rischio che perda un anno importante? È un rischio importante, sì. Se dobbiamo giudicarlo sulla qualità, non la perda l'anno. Se ci sono altre situazioni che costringono l'allenatore di prendere altre misure, allora forse la perde. Parliamo di mobbing? Ma potrebbe essere mobbing, sì. Per me è un mobbing quando tu minacci che lui sta un anno in tribuna. Allora, avvocato? No, sono dichiarazioni ovviamente di parte, e l'anno che aspetta il Milan e Donnarumma sarà un anno molto difficile, fatto di grande attenzione da parte di entrambi, se la situazione contrattuale rimarrà quella che è attualmente, non ci saranno trasferimenti o risoluzioni consensuali del rapporto, perché un giocatore di quel calibro che ha diritti e doveri derivanti dal contratto, da un accordo collettivo e la società altrettanto, i rischi che qualcuno dei due metta un piede in fallo o ecceda rispetto ai diritti rispetto all'altro esiste, e a quel punto, ma solo a quel punto, si potrebbe affrontare una tematica di mobbing. Attenzione, allora fatemi capire, come diceva Candido Cannavò, Pierluigi Pardo, di anche la tua. Se io adesso prendo un altro portiere, poi ne ho quattro perché Storara ha rifirmato, c'è cioè il ragazzino che pare sia molto forte, Plizzari o Plizzari che dir si voglia, e poi ho Donnarumma, ho quattro portieri. Io sono Montella, li faccio allenare ovviamente tutti regolarmente con la prima squadra, e poi scelgo di mandare in porta chi ne voglia. Io credo che questa sia, adesso non sono un esperto di diritto, ho fatto qualche esame all'università, appunto, ma abbiamo Mattia Grassani. Mi sembra che la strada sia questa, la strada eventuale del Milan, cioè il Milan deve formalmente rispettare in questo tipo di scenario, ovviamente se non ci sono novità dal punto di vista di una risoluzione concettuale, di un trasferimento, ma se dovesse rimanere questo il clima e se il Milan veramente volesse fare questa sorta di ripicca, dovrebbe rispettare formalmente tutta la prassi, quindi Donnarumma che si allena con gli altri giocatori, certo, che fa parte del gruppo, e poi non gioca, perché chi gioca e chi non gioca lo decide Montella. È così, avvocato? Sì, sì, assolutamente. Dico anche di più, che dal momento che Montella è calciatore che è anche in età per essere comunque selezionato per la formazione primavera, lui si allena con la prima squadra, sì, si spoglia negli spogliatoi con i suoi colleghi della prima squadra, fa l'allenamento agli ordini di Montella, e poi il venerdì, quando vengono diramate le convocazioni, Montella può o non può essere convocato in prima squadra, può o non può essere convocato in primavera, e nel caso in cui lo fosse è tenuto a rispondere. Per questo, certo, che prima dicevo, sarà un anno di particolari tensioni, perché ognuno dei due soggetti potrebbe capitare o incorrere in un incidente di percorso, in un'intervista fuori luogo, in un attacco in debito alla società, o viceversa la società non corrispondere appieno a quelli che sono i suoi obblighi nei confronti del giocatore. Però la situazione è quella che avete appena delineato. Benissimo. Se non sbaglio, quindi pagare lo stipendio e non mettere in atto atteggiamenti, diciamo, discriminatori, cioè far sì che il giocatore sia formalmente nel gruppo. Sì, ma oltre che formalmente, anche sostanzialmente. Sostanzialmente, cioè, certo. Non bisogna creare una finzione o un'apparenza di integrazione per poi nascondere una invece esclusione. No, lui. Ma per esempio, quello che è successo quest'anno con Cassano? Scusi il momento. Quello fu consensuale, cioè Cassano non rientrava più nei programmi, da settembre, da agosto fino a gennaio l'accordo fu che lui si allenava con la primavera, e poi da gennaio, alla fine del mercato di gennaio, quando non ha trovato altra sistemazione, è stato definitivamente allontanato. Ma è un caso diverso, Cassano è un giocatore a fine carriera, questo è un giocatore che ha prospettive enormi, ha un contratto ancora in essere, e purtroppo questo anno, anche da un punto di vista della performance, un conto è giocare, cioè, oltre che allenarsi, partecipare, il Milan farà anche le coppe europee, e quindi un conto è essere selezionato, convocato e scendere in campo per un anno intero, un conto è solamente allenarsi, ma questo è un suo diritto, e la società, una volta che rispetta questo diritto del giocatore, è perfettamente adempiente, perfetto, rispetto al contratto. Perfetto, abbiamo risolto questa questione. Io sto facendo, no, lo dico per me stesso, è una cosa perversa, cioè mi sto guardando sul telefonino perché ricordo che siamo ci potete vedere anche sulla pagina Facebook di Radio 24 e sul sito di Radio 24, e io mi sto guardando, vi saluto. Altra cosa, Mirabelli, direttore sportivo del Milan, smentisce di voler punire Donnarumma con panchino tribuna. Questo. Ma queste sono cose vostre che dite voi, non esiste l'allenatore che fa le scelte, ma questo vale per Donnarumma e per tutti i giocatori che sono al Milan, per tutti quelli che prenderemo, e non esiste, queste sono cose vostre che dite panchina, tribuna, per noi i giocatori sono tutti alla stessa posizione, poi le scelte le fa il mister, ma onestamente sono cose che non stanno né in cielo né in terra, quelle di pensare tribuna e panchina. Vabbè, mentre gli cresce il naso a Mirabelli in punta, posso, e qui è facile, perché se Mirabelli mai dovesse farsi scappare che invece c'è un atteggiamento discriminatorio, è che incorrerebbe in una di quelle scivolate di cui parlava l'avvocato. È chiaro che la società dovrà sempre dire che il giocatore fa parte della rosa ed è a disposizione della squadra, e poi a quel punto Montella, che è l'unico responsabile dell'area tecnica, deciderà che cosa fare. Quindi che Mirabelli risponda a questo è assolutamente logico ed è semplicemente normale. No, evitare uno scivolone che invece in caso eventualmente che potrebbe a quel punto far pensare al mobbing. Certo, chiarissimo. No? No, guarda, secondo me sei stato chiarissimo tu all'avvocato. Io chiedo un'altra cosa, su questo non c'è ombra di dubbio. In punta di diritto, avvocato Grassani, che strumenti ha il Milan per difendersi da questa scelta di Raiola che danneggia il club rossonero? Nessuno. Piaccia o meno, il rapporto di lavoro sportivo è un rapporto di lavoro a tempo determinato. E quando si avvicina la scadenza, 3 stagioni, 2 stagioni, 1 stagione, come nel caso in esame, e la società l'unica cosa che può fare è cercare di cedere il giocatore quantomeno o nel mercato estivo prima dell'inizio dell'ultima stagione di contratto, o addirittura mercato invernale, ma ovviamente il valore proporzionalmente con il decorso del tempo scema, e quindi la società purtroppo subisce un danno economico e deve stare zitta. Per la tipologia del rapporto di lavoro sportivo, i calciatori non si assumono a tempo indeterminato, quindi quando da 1 a 5 anni il contratto poi arriva allo spirare, questo è il lato B della medaglia rispetto al datore di lavoro club, che ha formato, impiegato risorse, magari anche profumatamente pagato il giocatore per X anni, e quando si arriva a questo tipo di situazioni il rapporto di forza è sbilanciato completamente a favore del giocatore, e la società non può che accettare, chiedendo la massima professionalità all'atleta, tenendo anche conto che puntare su un giocatore che è l'ultimo anno di contratto con il Milan, quando magari hai altre risorse, altri talenti da crescere e formare, questa è l'unica cosa che la può fare, non puntare su di lui chiedendo la prestazione e pagandolo, ovviamente facendolo allenare e null'altro, ma non può opporsi a questo tipo di situazione. Perfetto, abbiamo capito, il Milan viene fregato perché ci rimette un sacco di soldi a Pierluigi, nulla da fare. Grazie, sì, avvocato Grassani. Grazie a voi. Perché in realtà questo tipo di situazione non conviene neanche a Donnarumma. Poi è ovvio che, come diceva giustamente prima l'amico, dipende che cosa ha in mano Raiola, e immaginiamo che abbia qualcosa di grosso in mano, nel senso che non avrebbe fatto una scelta di questo tipo se Donnarumma non avesse le soluzioni economicamente e tecnicamente ancora più interessanti del Milan. Però insomma, passare un anno a giocare nella primavera, ad allenarsi senza mai giocare, andare in panchina a fare il numero 12, a perdere un anno importante, oltretutto non è un anno banale, c'è il mondiale. Io ti dico la verità, a me sembra che il signore, anche le dichiarazioni di ieri di Mirabelli, vada in una direzione molto precisa, e cioè quella di mettere il ragazzo in una condizione psicologica tale da chiedere un passo indietro a Raiola. Sì, magari non arriverà, è abbastanza improbabile che arrivi, però Raiola ha chiuso ogni porta. Il Milan ha diritto di farci delle proposte, noi rispondiamo, le ascolteremo, perché dobbiamo ascoltarle, risponderemo di no. Quindi mi sembra piuttosto definita da quel punto di vista la situazione. Fermiamoci per la borsa e poi parliamo di Under 21, perché ragazzi, 800 24 00 24, questa nazionale, ci piacerebbe alzare la coppa. Tutti convocati. Notte di lacrime, preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Una notte da paura, una notte di passaggio, una notte che è anche una festa. Insomma, una notte da vivere e da rivivere. È la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e insieme alla cantante Marianne Mirage vi aspetto martedì 20 giugno dalle 21 alle 24. Tre ore di voci, di sogni, di racconti, di maturandi, di testimonianze, di consigli, di attori, scrittori, artisti per prepararsi insieme all'esame di maturità. La notte prima degli esami. Una notte che è tutto un programma. Ovviamente su Radio 24. In collaborazione con scuola.net. E ogni giorno sulla pagina web di Cuore e Denari un consiglio pratico per affrontare al meglio la prova. Notte. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Non avevo dubbi, una partita difficile, scorbutica, con un avversario che conoscevamo bene e sapevamo che ci avrebbe fatto soffrire. Non abbiamo giocato una grandissima gara, però abbiamo interpretato la gara come doveva essere fatto, cioè da migliorare, cioè da stringersi un po' e cioè da essere un po' più incisivi negli ultimi 30 metri, questo sì. Un'emozione grande, soprattutto perché non riuscivamo a sbloccare la partita e prima della partita ci siamo tutti detti che era importantissimo vincere oggi, infatti abbiamo cercato subito di dare tanta intensità alla partita e insomma sono contento al di là per il gol, ma proprio perché dopo il gol è andata sicuramente meglio, siamo riusciti a raddoppiare, abbiamo portato a casa tre punti importantissimi. Dunque, abbiamo sentito Di Biagio, ICT e Pellegrini, autore del gol che ha aperto il nostro europeo Under 21, 800 24 00 24, per intervenire. Un saluto particolare a Pierluigi Pardo, naturalmente, lo rinnovo a nome di tutti gli ascoltatori, ma era già collegato con noi prima. L'ha preso così. Beh sì. Adesso però un saluto particolare soprattutto al direttore generale della Federcalcio, Michele Uva. Che dici, Pardo? Buonasera a tutti. Ciao Michele, ciao. Ciao Michele. Ciao Pierluigi, buonasera a tutti. Buonasera Michele. Allora, abbiamo parlato per mezz'ora di Donnarumma, vorrei chiudere questo argomento con la contestazione che abbiamo visto ieri, perché ha fatto il giro del mondo, è raro, non si è forse mai visto, a me è sembrata anche elegante, voglio dire, niente di eclatante, clamoroso, però quel Donnarumma e il lancio di dollari quando è entrato in campo da parte del Milan Club Polonia è stato qualcosa di strano per un giocatore che veste la maglia con lo scudetto della nazionale. Come l'avete presa? Beh, l'abbiamo presa più o meno come appena detto, nel senso, quando si veste la maglia della nazionale si rappresenta una nazione intera, si rappresentano i giovani, si rappresentano i vecchi, 5 milioni, quasi 6 milioni di telespettatori che ieri sulla Rai hanno seguito la partita, un record assoluto per l'Under 21. Penso che non abbiamo dato un bello spettacolo come calcio italiano a livello mondiale. Quindi presa male. Questa vicenda speriamo non influenzi dall'interno del gruppo l'europeo, ma mi sembra un gruppo molto maturo. Tu cosa ne pensi, Pardo? Che è il posto migliore dove Donnarumma possa stare in questi giorni, nel senso che credo che anche se ovviamente i social arrivano ovunque, i giornali arrivano ovunque, però il chiuso di una nazionale oltretutto piena di talento e di virtù è un obiettivo importante da conquistare come l'europeo, siano veramente l'ambiente ideale per un ragazzo di 18 anni per riuscire a rimanere nei limiti del possibile riparato da queste tensioni. No, a me non è piaciuta particolarmente, ti dico la verità. No, sicuramente anche piacere, una componente piacere, di creatività, quindi va bene. Però insomma non mi è piaciuta. Nemmeno a me è stata civile, non è piaciuta a nessuno. Ecco, su questo Michele ha ragione. Mentalmente diciamo a solidarizzare con il ragazzo, anche se poi, come tutte le cose della vita, è ovvio che insomma ad azione corrisponde reazione, e quello che è successo nei giorni scorsi, comunque senza rientrare nel merito, è uno strappo, porta con sé inevitabilmente delle polemiche, tanto più perché Donnarumma è forte, è un grande prospetto e quindi in qualche modo queste polemiche sono anche una misura della sua forza. Benissimo, adesso facciamo dire al direttore generale della Federcalcio, che sottolineava giustamente come quest'Under 21 ha colpisce, perché è una sorta di proiezione della nazionale maggiore. Stiamo, almeno questa è la mia sensazione, viviamo questo europeo quasi come fosse l'europeo maggiore, perché ci sono tanti giocatori che l'anno prossimo, grazie a Dio, brave le mamme italiane, potremmo vedere ai mondiali. Adesso facciamo dire al direttore generale della Federcalcio che ci piacerebbe molto molto molto, Spagna permettendo, Germania permettendo, che affronteremo, alzare quella coppa. Beh, è indubbio che un europeo under 21 sicuramente si sta un po' troppo alzando il tiro sulla nazionale italiana. È vero che nazionale di talento, noi ci teniamo tantissimo, c'è un'organizzazione che segue la nazionale del 21, che anche le altre nazionali, perché non voglio anche ricordare che pochi 10 giorni fa abbiamo vinto per la prima volta nella nostra storia un bronzo terzo posto al mondiale under 20, che poi sarà la prossima under 21, quindi vuol dire che c'è un ricambio generazionale importante nel nostro calcio, che ha anche una relazione molto semplice: questi giovani esistono, cerchiamo di seguirli molto di più da quando partono, ma soprattutto li facciamo crescere con la maglia azzurra e un grazie alle società. Le società hanno capito finalmente che far giocare i giovani italiani porta valore aggiunto, porta legame al territorio, porta una serie di valori in più che possono permettere poi una valorizzazione anche delle proprie squadre straordinario. Certo. Il fatto che sia che l'Under 20 sia dall'Under 19 da seconda agli europei, si è diventata terza al mondiale, e solo perché in un anno hanno giocato molto di più, così come questi under 21 hanno giocato tutti molto di più, e questo è stato grazie alle società. Grazie alla società, grazie a una serie di fattori, compresa la crisi economica. Questi sono discorsi che abbiamo già fatto molte volte, va bene così. Però io noto un elemento nuovo, Pierluigi, che si vede un lavoro diverso, almeno io vedo un lavoro diverso rispetto al passato. In questo voglio dire brava la Federcalcio, ma non perché c'è Uva, brava la Federcalcio, perché mi sembra che si stia lavorando in concerto dal commissario tecnico Ventura al commissario tecnico dell'Under 19. Mi sembra che Sacchi e chi ha preceduto, che adesso anche non c'è più, abbia fatto un eccellente lavoro di coordinamento. Guarda, io sai come la penso. Penso che tutto questo ciclo della Federcalcio, cominciato 3 anni fa, con delle gaffe imperdonabili e inaccettabili, però poi nei fatti stia portando a dei risultati molto positivi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche etico. C'è un bilancio etico della federazione, che è un tema particolarmente, magari di quelli che non vanno in prima pagina sui giornali, ma che sappiamo che è molto importante. Mi sembra che ci sia in questa federazione e Lega ogni settimana un'iniziativa che viene portata all'attenzione dell'opinione pubblica, e se ne parla forse troppo poco. Insomma, io sai che sono di quelli che cerca di, sono un po' ottimista per natura, e sono anche di quelli che cerca poi di non farsi portare dalle etichette. Qui le etichette con le quali da vecchio aveva cominciato sono delle etichette ovviamente molto negative, però invece secondo me i risultati sono positivi. Dal punto di vista tecnico c'è sicuramente un coordinamento. Il lavoro che ha fatto Conte, come ci raccontava ieri Baroni, non è stato importante soltanto dal punto di vista della nazionale maggiore, ma anche come raccordo. Si vede, si sente, si tocca, come diceva una famosa pubblicità. Senti, e poi ci sono società come la Atalanta al Torino, per esempio, che hanno fatto tantissimo da questo punto di vista. Quindi insomma, godiamoci questi risultati. Poi ci sono sempre le mamme e i papà italiani. Poi le mamme e i papà italiani, e poi c'è nell'ultima partita del girone, c'è la Germania. Vogliamo ripristinare una certa tradizione, Michele. Hai altri 2 minuti? Certo. Benissimo, io lo stop per il traffico dura 30 secondi e poi ancora un paio di domande per il direttore generale della Federcalcio. I love this game. Tutti convocati. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Convocati. Non so se Michele Uva ha qualcosa da aggiungere sul punto che stiamo sviluppando, che abbiamo sviluppato con Pardo, e soprattutto sul futuro. Si continuerà a lavorare così? Beh, non, ringrazio Pierluigi, perché comunque sono parole attestate di stima che vengono anche da voi quando affrontate anche questi argomenti, perché ce ne sono, come dicevamo prima, tanti che sono come quello di ieri della Nazionale A, che sono alla portata dei milioni di tifosi, e ci sono altri che noi facciamo perché pensiamo di avere quel senso di responsabilità verso chi ama il calcio. Cerchiamo di lavorare in silenzio, cerchiamo di svolgere il nostro ruolo, perché sappiamo che è un ruolo importante. È una comunità di 1,5 milioni di iscritti che vivono con il codice della federazione, su questi noi sentiamo un senso di responsabilità e non un senso di forza o di potere. Quindi siamo felici, continueremo in questa direzione, investiremo sulla base e investiremo sulle nazionali. Sono le nostre due aree su cui non possiamo permettere, assolutamente sì. Perfetto, Michele Uva deve prendere un aereo, io ho ancora un appunto da fare, una cosa da dire. È chiaro che, abbiamo detto, è una nazionale che ricorda un po' le grandi Under 21 del passato. Io associo, la prima associazione di idee che mi viene, anche se non abbiamo quei grandi talenti, è stata quella della Under 21 di Totti, dell'Under 21 di Vicini, che poi fece il Mondiale d'Italia 90. È una di quelle lì, mi pare. Michele? È un grande gruppo, perché io vengo proprio da Cracovia, sto rientrando in Italia. Sono stato un giorno con loro, è un gruppo. La cosa bella di questi giovani è che veramente in questo momento lasciano da parte tante, tante difficoltà che magari hanno avuto durante l'anno e diventano veramente una cosa unica. La maglia della nazionale, ieri in poche parole, prima che ho detto prima della gara, ho detto divertitevi, perché comunque rappresentate milioni di persone. Fatelo col sorriso, fatelo con l'educazione e il rispetto che dovete avere per la nazionale e per tante persone. Non molleremo, come dicevo prima, le nazionali giovanili stanno crescendo, il movimento femminile sta crescendo. Ieri la Juventus ha annunciato l'acquisto di una società di calcio femminile di Serie A, ha vinto un torneo Under 12 della Danone Cup, quindi è un sistema che si muove, e questo noi saremo sempre lì attenti. È una nazionale di talento, è vero, però deve crescere con calma, deve crescere protetta dalla federazione, deve crescere soprattutto dai principi sani, perché non tutti diventeranno delle stelle, ma anche quelli che non sono delle stelle saranno sempre degli ottimi giocatori italiani. Ci sentiamo per questi, nel corso degli europei. Amate questa nazionale, amiamo tutte le nazionali. Il dato di ieri è abbastanza impressionante. Grazie Michele. Ciao Michele. Ciao. Ma non tutti magari sono così a pezzi, tutti i giorni a leggere gli ascolti, ma insomma è stato ieri da record, del 5% su Rai 1. È vero che magari è una serata abbastanza povera di alternative, però insomma è un dato di 5% per la strada del 21, è un dato quasi da Nazionale A, è un dato da 6 milioni, come no? È un dato da partita del girone di Champions League di una squadra italiana, quindi è un dato molto positivo e secondo me qualche modo misura questo riflette quanto dicevo prima per Luigi. Poi Michele Uva, ovviamente per ragioni di istituzionali, deve tirare il freno a mano, però è chiaro che da questa nazionale Under 21 ci aspettiamo già da adesso molte cose. È chiaro che c'è, insomma, quasi quello spirito di un europeo vero, non tanto di un europeo Under 21, cioè grande attenzione. Noi forse dovremmo dirlo più spesso, perché poi sono le infrastrutture, l'idea che in Italia sia così difficile riuscire a costruire stadi, al netto di tutte le problematiche che ci sono, perché io non faccio non so se lo stadio della Roma sia nel terreno giusto, però trovo che sia assurdo che un processo, un iter come quello che comincia con una giunta di un certo tipo, poi viene consolidato da una giunta di tipo un altro tipo, e poi c'è la giunta di tipo C, ogni volta si ricomincia la capa. Questo è un problema, non è un problema di Roma, è un problema complessivo. Ma no, ma questo paese, è un problema italiano, e poi chi arriva dall'estero, cinesi, americani, eccetera, se ne rendono conto, ma siete tutti matti qua, cos'è sta cosa? Abbiamo un sacco di ascoltatori, Pier, stiamo per chiudere loro, sto per salutarti. Stefano da Genova, Franco, Giancarlo, Paolo, eccetera, eccetera. Stefano, buongiorno. Partiamo. Via, buongiorno, via. Stefano. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare ovviamente i complimenti per la trasmissione e un saluto particolare a Marta. Ovviamente. Perfetto, perfetto, grazie, grazie Stefano. Ok, d'accordo. No, a parte scherzi, volevo tornare sul tormentone di Donnarumma, però io penso, no, che si è parlato poco forse del fatto che il problema principale poteva essere la situazione del Milan in quel periodo, nel senso che a mio avviso Donnarumma è stato fatto giocare in Serie A a meno 18 anni con ancora un solo un anno di contratto, cioè comunque con una situazione un po' particolare. Vabbè, ma non era minorenne, non, sì, era minorenne, era 16 anni con Mihajlovic. Assolutamente vero, con Mihajlovic è verissimo, però quando poi un giocatore esplode in questo modo è normale che quando ci si sieda a un tavolo un procuratore richieda, proponga probabilmente una clausola, no? È evidente, penso che sia normale a questo punto. Mi viene in mente un giocatore della Sampdoria, Schick, no? Ha giocato 3 partite intere, fatto pochissimi in 15 minuti, 20 minuti di alcune partite, giocando benissimo ovviamente, è stato acquistato dalla Juve, è pagata la clausola. No, ma è un discorso che per il Milan è stato un anno particolare, quello della cessione, di una cessione molto difficoltosa, insomma è una situazione molto strana quella di Donnarumma, quindi... No, ma poi è una situazione che si ricollega a delle cose che Donnarumma ha detto, ha fatto trapelare, ha mostrato, i baci alla maglia, il Milan per me, il Milan è come... Cioè, io non veramente non ho niente, perché è una scelta legittima, è una scelta assolutamente legale, assolutamente onesta, ci sta, e potrebbe anche essere la scelta giusta. Io non lo so, non lo sappiamo. Però il fatto è stata una vicenda strana e unica non mi sorprende la polemica, ma nemmeno a me. Perché quando uno comunque fa cose di quel tipo è normale che ci siano polemiche. Questo quindi... è normale, se poi rimaniamo nei limiti della civiltà sono anche accettabili. Ciao Pierino, saluto, ci sentiamo domani. Ciao, un saluto particolare ti faccio comunque. È chiaro. Prima del giornale radio, Franco, Giancarlo e Paolo, non scappatemi, ok? GR, torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Apparteniamo a una comunità di viaggiatori in cerca di luoghi sconosciuti, tutti da scoprire. Un'Italia fatta di borghi antichi, di bellezze naturali e meraviglie architettoniche. Viaggia con noi per ascoltarne la storia e respirarne l'atmosfera. Radio 24 e Touring Club Italiano ti portano in alcuni tra i luoghi più belli e suggestivi del nostro paese. Ogni settimana in onda nel Sabato del Villaggio. Il sabato dalle 15 su Radio 24. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Tutti convocati. Io nella mia perversione e ignoranza tecnologica mi sto guardando in diretta su Facebook, perché siamo ripresi e quindi potete, oltre che sentirci, guardarci. Non so quanto possa valere la mia faccia, ma tra poco comincerò a invitare delle signorine amiche di Pardo in abbondanza, e quindi cercheremo di rendere più vivace anche la visione. Comunque, pagina Facebook di Radio 24 e sito di Radio 24, naturalmente. Invito l'ascoltatore che mi scrive, è proprio vero, l'ho sempre detto, che Genta non lascia parlare Pardo e tutti i suoi ospiti. Lo invito a condurre un programma radiofonico, a condurre tutti i convocati, volentieri. Ci sono... La radio non era la TV, ha dei tempi, è inutile stare a fare delle lezioni sulla tecnica radiofonica, però bisogna dare un certo ritmo. Se quando ascoltate un GR, ad esempio, provate a cronometrare la durata dei servizi, non più di un minuto. Vabbè, comunque, questo è un altro discorso, una digressione. Apprezzo l'ascoltatore che comunque lo fa notare. Graziano da Modena, buongiorno. Buongiorno, è un piacere sentirvi parlare. Un saluto particolare a Pardo, che però è in contumacia, non c'è più. E poi? È un piacere, è una curiosità, è sapere quanto guadagna il procuratore in caso Donnarumma o altri giocatori sullo stipendio del giocatore e quanto guadagna eventualmente sul trasferimento di un giocatore. Sì, credo sia, non ci siano delle cifre fisse, non sono preparatissimo sull'argomento, chiameremo un procuratore, ce lo facciamo dire senza alcun problema, perché credo non ci siano delle percentuali fisse ma delle percentuali concordate e quindi insomma ci sono delle regole che vengono stabilite nell'accordo tra procuratore e giocatore, comunque non poco, non si preoccupi che Raiola non ha grandi problemi economici, nonostante la t-shirt blu che indossava ieri in questa conferenza stampa, io insomma ci ho fatto dell'ironia, però era atteso come manco fosse un premier, manco fosse Putin. Saluto e ringrazio il mio amico Alessandro Grandesso da Parigi. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Ovviamente corrispondente della Gazzetta dello Sport, leggiamo tutti i giorni. L'altro giorno, esattamente venerdì, in altra sede, non in questo programma, mi è capitato di incontrare Leonardo, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, e pubblica, peraltro. Okay. Insomma, quando gli ho chiesto l'esperienza a Parigi, ho detto, non è stato facile, non so neanche se è stata una grande scelta. Perché? Perché sono arrivati gli arabi, chiamano Leonardo, questa è una grande idea, ti dicono, puoi spendere quello che vuoi. Ma non è una questione di avere a disposizione un mare di petrodollari, è questione di costruire una squadra di calcio, quindi bisogna avere delle idee, del tempo, delle scelte che maturano con il tempo, non è che puoi comprare la Coppa dei Campioni, no Alessandro? Sì, sì, chiaramente hai ragione, anche, voglio dire, anche perché oggi il Paris Saint-Germain vive ancora sulla rendita che sta scemando per normale questione di tempo che passa sulla rendita di quanto ha costruito Leonardo. Leonardo in tre anni, due anni e mezzo ha costruito l'ossatura di questa squadra che vediamo ancora oggi, che è un tempo fisiologico per una squadra per una squadra sportiva. Esattamente, è un tempo fisiologico. Se n'è andato nel 2013 e da allora, insomma, solo quest'anno c'è stata una pseudo nomina di un direttore sportivo l'estate scorsa con Klagert, e questa che è stato un disastro totale. Dai ragazzi, non scherziamo, paragoniamo Leonardo non sto parlando di capacità intellettive, no, al di là delle che poteva essere una scommessa, il Klagert si è rivelato inadeguato perché non aveva una visione e nelle competenze. Leonardo, bravo. Ora adesso c'è questo Enrique portoghese, Antero Enrique, che ha una lunga esperienza con il Porto e che sembra possa avere, diciamo, se non altro le competenze, le competenze, perché il problema è, come probabilmente avrà spiegato anche Orlando, che la situazione del Paris Saint-Germain è molto complessa dopo appunto questi tre anni di vuoto di gestione della direzione. Certo, ma anche perché quando sento dire però alla guida della società ci vuole la bandiera, un attimo, la bandiera deve imparare a fare quel mestiere lì, perché non è nato imparato, nessuno nasce imparato. Quando per esempio Albertini è uno che ha imparato a fare il dirigente, ma se Paolo Maldini, sarebbe bellissimo, tornasse al Milan, o Totti, il discorso che si fa con la Roma, insomma, devono imparare a fare quel mestiere lì, e Leonardo l'ha imparato a fianco di Galliani nel Milan, quindi era un manager formato per dirigere una grande azienda. Con esperienza anche da allenatore, stavolta. Con un'esperienza, ma oltre sì, che ma da con campione calcistico, ma certo, un bagaglio completo. Insomma, tu devi non basta il nome, non basta quello che hai fatto per una squadra, devi imparare a fare un mestiere che è molto differente e molto complesso. Però io vorrei capire la situazione a Parigi, perché se ne sentono di tutti i colori. Allora, Berratti che vuole andare via, di Ronaldo se ne parla, insomma è una storia che come dappertutto. Sì, un po' dappertutto, ma da tanto tempo, curiosamente da tanto tempo si dice ma forse da quest'inverno Ronaldo potrebbe andare a Parigi, eccetera eccetera. Secondo me non è solo da quest'inverno, il problema è che Parigi ha sempre lasciato intendere di avere questa capacità finanziaria per poter affrontare grandi acquisti alla Ronaldo senza problemi. Senza problemi, di conseguenza automaticamente qualsiasi acquisto di un certo livello viene associato anche al Paris Saint-Germain. Non mi è chiaro perché Verratti vuole andare via. Verratti vuole andare via per due motivi essenzialmente. Il primo è che dopo 5 anni, considera la sua esperienza esaurita, il che mi sembra anche abbastanza normale, rimane 5 stagioni nella nostra epoca, visto che si parla sempre di bandiere in un club, quasi un record. Ha dato molto e il ciclo secondo lui è finito, finito anche perché l'ultima annata è stata molto deludente per Verratti dal punto di vista degli obiettivi che lui si è prefisso e si era prefisso e non ha raggiunto, e poi perché dall'altra parte c'è la chiamata del Barcellona che non lascia indifferente nessun giocatore, soprattutto uno come Verratti. Certo, ascolta, mi dici una cosa che per me è misteriosa, ma perché hanno confermato un allenatore che ha fallito su tutti i fronti, cioè Emery? È un po' il paradosso dell'insegnamento Ancelotti. Ancelotti rimase qui, perse lo scudetto nei primi 6 mesi, quindi diciamo, era un po' giustificato dal fatto che era arrivato a gennaio, poi ha vinto lo scudetto, ma durante tutta la stagione è stato messo sotto pressione dal presidente, dai dirigenti, e alla fine Ancelotti ha deciso che non c'erano le condizioni ideali per lavorare e se ne andò sbattendo la porta. Ora, col senno di poi, anche il presidente Al-Khelaifi ha capito che se si vuole costruire qualcosa bisogna avere un po' più di pazienza, e quindi loro oggi dicono: applichiamo la pazienza al caso Emery. Emery ha fallito i due principali obiettivi stagionali, cioè lo scudetto e almeno la semifinale di Champions, però si considera che potrebbe eventualmente fare meglio il prossimo anno. Chiaro che se a settembre, ottobre, novembre la squadra, come c'è il rischio che ci sia, sarà allo sbando, allora lì... No, ma mi fa sorridere quanto stride quanto tu mi stai dicendo, che indubbiamente è vero, con quanto diceva l'altro giorno Leonardo. Cioè, questi arrivano, ti dicono: ok, prendi tutti i soldi che vuoi, però voglio la Champions League subito. Lui dice: aspetta un attimo, siamo usciti, ha detto Leo, con 2 pareggi con il Barcellona, quindi neanche fortunatissimi con il sorteggio, anzi sfigati da morire con il sorteggio. Ed Emery, che è stato preso perché era bravo, era considerato il mago del doppio turno di Coppa, quest'anno bagno di sangue con quella sconfitta storica a Barcellona, confermato. Vabbè, strana la vita, beato lui. Diciamo, sono quelle, come dire, la vita è strana, che rendono, come dire... mandano in perplessità tutti, diciamo, le persone che lavorano col Paris Saint-Germain, cioè c'è un sentimento di perplessità sulla gestione generale. Non solo quelli, io non so, ci sono delle cose che non riesco a capire, ma pazienza, mi diverto lo stesso. Grazie Alessandro, ci sentiamo presto. Grazie a voi. Ciao Ale. Ciao Alessandro Grandesso da Parigi. Dunque, non abbiamo capito se Ronaldo, che però vorrebbe lo United, vorrebbe tornare a casa sua, quella che è stata la sua casa per anni. Se Ronaldo, che il Real Madrid peraltro ci diceva ieri Filippo Maria Ricci, insomma, lascerebbe anche andare, cioè vuoi andare vai, 100 milioni è una cosa si può fare, però c'è questa tentazione parigina di giocare con la Tour Eiffel sul petto. Staremo a vedere, lo racconterà quest'estate in cui tutti i convocati, tanto per cambiare, non si fermerà mai. Saremo qui tutta l'estate, tutto l'anno prossimo. 800 24 00 24. C'è Edoardo Lavezzari, mi fa: vai con gli ascoltatori, andiamo. Francesco, buongiorno. Francesco, non mi rispondono, Edo. Francesco, vai. Giancarlo da c'è Francesco? Io sono Franco. È Franco, mi scrivo un Francesco, mi perdoni. No, niente, pensavo fosse un altro ascoltatore. No, era lei, dalla provincia di Ferrara chiama. Esatto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io sono milanista e quindi parlo di Donnarumma. Quindi è incazzato duro. Amareggiato, però amareggiato, io penso che va bene. Il Milan, visto gli obiettivi di Raiola, ha 2 strade da percorrere. Una, o puntare su Donnarumma e non prendere nessuno, e lui ha tutti gli interessi di essere professionista serio per andare al mondiale e strappare un buon ingaggio. L'altra invece, se veramente si trova un portiere all'altezza, e non art o qualsiasi rimedio. Art, lasciamo stare. Allora Donnarumma può anche stare in panchina col suo rischio di perdere il mondiale. No, non perde il mondiale. Comunque, non, se, cioè, se le cose vanno come devono andare, Donnarumma va comunque al mondiale, io credo, ma fa il numero 12 di Gigi Buffon. Se le cose vanno come devono andare, questo è il disegno oggi a un anno dal mondiale. Poi il Milan, allora io penso che ci siano dei portieri che, come Buffon, come Neuer, che da soli valgono, non so, una quindicina di punti a stagione. Donnarumma può essere uno di questi. Ci sono poi molti bravi portieri che si equivalgono. Credo che questa sia la strada, si parla di Perin, credo che questa sia la strada che seguirà il Milan. Poi, giustamente, come è stato sottolineato da tutte le parti, Donnarumma si allenerà con la squadra e poi c'è la Montella. Giancarlo da Fermo, buongiorno. Buongiorno, è un onore essere convocato da lei. No, no, onore mio, un saluto particolare a Pardo naturalmente che ci sta ascoltando. E poi? Sì, saluto Pardo. Le volevo dire che sono italo-polacco. Sì. E ho sentito Pardo che non è molto d'accordo. Io le premetto che no, però molto d'accordo su cosa? Milan Club Bologna, sì, aveva anticipato al giorno prima che avrebbe contestato Donnarumma e non è obbligato logicamente a tifare Italia, quindi io personalmente ho tifato Italia, ho tifato Donnarumma. No, ma anche no, allora un attimo Giancarlo, anche quelli che c'erano lì hanno tifato Italia, hanno tifato Donnarumma, sì, è stata una contestazione per quanto civile, è avvenuto. Civile come dice lei però. Sì, sì, civile, ma infatti io... Magari erano meglio gli euro a posto dei dollari, però... No, ma va bene anche i dollari, è stato strano, perché normalmente chi veste la maglia della nazionale è applaudito dai tifosi, quelli era Milan Club Polonia, è andato lì apposta a contestare Donnarumma, è stato un caso estremamente sui generis. Però abbiamo assistito e assistiamo proprio nel nostro paese, non da parte del Milan Club Polonia, a delle contestazioni che sono molto meno, diciamo così, eleganti. Infatti è stato un episodio curioso, certamente non ha fatto piacere a nessuno, alla Federcalcio, come ha detto Uva, non poteva dire altrimenti, non ha fatto piacere ai tifosi dell'Italia, però è stato qualcosa che, va bene, ci sta, da parte di tifosi del Milan polacchi che sono andati lì apposta a fare questa manifestazione. A me un sorriso è scappato, devo dirvi la verità. Roberto, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno carissimo, buongiorno a tutti, grazie della convocazione. Io non parlo di calciomercato, io parlerei un attimo della nazionale, se siete d'accordo. Parli di quello che vuole. Una domanda, ma voi che siete esperti del calcio in generale a tutti i livelli, ma sinceramente vi sembra adeguato Ventura per la guida della nazionale? Sì, certo. Beh, sì. Perché okay, non ha esperienza internazionale, non ha vinto nulla nella sua carriera, nemmeno un torneo parrocchiale. Sì. Non valorizza i giocatori, basta vedere il crollo di orientamento che c'è stato tra l'anno scorso con Conte e quest'anno. Sì. A un'età che gli altri sono già alle panchine a portare i nipotini a spasso, eccetera, eccetera. Adesso non esageriamo. Vabbè. No. Difficilmente perderemo sicuramente con la Spagna. Rischiamo di non andare ai mondiali. Quanto pessimismo, Roberto. I dati sono questi qui, Sì, ma allora che facciamo? Ci tira la nazionale? Non è meglio sensibilizzare un po' la FIGC e vederli avvicendare Ventura con qualcun altro? Ma allora questa, non lo so, questa scelta è stata fatta un anno fa quando Conte è andato al Chelsea. Su Conte non c'erano discussioni. Io torno a ripetere quanto detto prima, secondo me è molto interessante, e non lo dicevo perché c'era Uva, ma perché è qualcosa che vedo, ed è stato un lavoro avviato da Sacchi e dal suo entourage. A proposito, Arrigo Sacchi, se ci sta ascoltando la convochiamo nei prossimi giorni, perché vorrei ripartire da questo argomento. È un lavoro che si può toccare con le mani, funziona dall'under 19 a un under 21, e Ventura è là ovviamente a seguire l'under 21, cioè mi sembra che si stia costruendo un Club Italia molto ben strutturato e molto, molto interessante. Speriamo che Club Italia funzioni anche nel basket. Ho qualche preoccupazione. Mio amico Attilio Caia, ciao Attilio. Ciao Ciao Carlo, buon pomeriggio. Da dove vuoi partire? Finale scudetto con Venezia in vantaggio, con la vecchia Rera in vantaggio, o dal discorso nazionale Messina, saluto e me ne vado perché gli Spurs hanno detto non puoi più fare questo doppio incarico, o da Bargnani che in nazionale non ci va? Ti lascio scegliere, nazionale o campionato? Ma guarda, io non è che non so se vado controcorrente o meno, ma io sono fiducioso nell'europeo, perché a volte quando si va sempre così un po' troppo pavoneggiandosi, troppo di così, con pensando di fare chissà che cosa, è la storia che si prendono un po' di risultati non ottimali. Invece adesso che si va un po' a fare spenti come low profile, e quindi come allora tutti sono più responsabilizzati, siccome giocatori che si sono affermati in quest'annata importante, mi riferisco ancora ad Antoni, Melli, Gallinari e Bellinelli, arrivano da una stagione NBA così buona ma non eccellente, hanno avuto molto tempo per riposare, confido nel recupero anche di Hackett, quindi secondo me ci possono essere veramente premesse. Di Gentile non credo che sia tra... Mi sembra complicata. La vedo duretta. A proposito, già che sono in tema di convocazioni pubbliche, ho convocato pubblicamente Arrigo Sacchi, ho cercato Danilo Gallinari qualche tempo fa, ormai mi risponde solo con messaggi vocali su Facebook, che non so neanche come si fa a mandarli, non so se anche per te è così quando chiami Danilo. No, io quando lo prendo in giro per il Milan. Lo prendi in giro per il Milan. Capisco. Quindi per quello. No, ha detto vado in Cina e poi vengo, ovviamente vengo a trovarti, vengo a salutarti. Penso sia tornato dalla Cina, quindi Dani, ti aspetto. Attilio, andiamo sul campionato con, sentendo come è finita ieri sera questa partita pazzesca. Vorrai che prenda il tiro. Perché Venezia conquistasse il match point in questa serie finale. Allora Attilio, non ho mai nascosto il fatto che ci conosciamo da quando eravamo bambini, da quando io ero bambino, tu eri già grande, una di quelle partite che piacciono a te, ai 60 con Sangue Arena. Sì, è stata una partita molto bella da vedere, devo dire che Venezia possiamo dire che è stata fortunata, non ha rubato niente, no, però perché sotto ha fatto tutta la gara, esatto, tutta la partita, alla fine quel Bramos che era stato uno dei non dei peggiori ma neanche tra i migliori, aveva spadellato la partita, ha fatto il canestro vittoria, e dall'altra parte Trento ha riconfermato di essere una grandissima finalista scudetto, ha fatto un'eccellente partita, ha comandato proprio la partita, è andata dove voleva andare, ha fatto proprio il proprio gioco, ha da maricare sui tiri liberi finali negli ultimi due minuti, 0 su 4 i tiri liberi di Ogwe, che tra l'altro è stato forse il miglior giocatore della partita, però è stato proprio decisivo quello 0 su 4 e quella bomba che purtroppo ha lasciato molto l'amaro in bocca a Trento, però una squadra viva che è ancora assolutamente nella serie e può giocare ancora con fiducia le prossime eventuali due partite. Sbaglio, hai allenato tu Filloni? Filloni, no, io il fratello. Ah, il fratello, io me li confondo. Questo qua è un buon sangue. Questo è un gran passatore. Mamma mia. È uno che quando c'è da fare una cosa importante, soprattutto nei momenti finali della partita, lo fa. Sono convinto che se Messina lo chiamerà in nazionale possa dare anche un grande aiuto con la squadra nazionale. Sì. Senti Attilio, ma c'è, allora, da una parte Trento che non ha nessuna storia. Tu alleni una squadra che invece ha una storia immensa per il nostro basket come Varese. Trento che non ha nessuna storia, è una società neonata che è salita presto dalle serie inferiori, sono stati bravissimi, hanno una grande organizzazione. Dall'altra parte abbiamo una società storica del basket italiano come la Reier. Lo scudetto finirà da una parte o dall'altra, rimarrà lì ad est. Io sto guardando con tutte le sere con uno che conosci bene, poi se vuoi ti dico chi è, ma è nostro grande amico, le partite di A2. Allora mi sembra scandaloso vedere la storia del basket italiano, non so se non si chiama più A2 ma io semplifico, la storia del basket italiano che deve passare dalla cruna del lago di una promozione. Beh, insomma, è stato anche già deliberato che dalla stagione, non la prossima, ma quella successiva. Diventiamo vecchi intanto. Diventiamo intanto. Vabbè, in Italia i tempi sono quelli. L'importante è però arrivarci. Quindi c'è questa, ci saranno due promozioni, quindi sarà un buono, anzi addirittura per andare a Serie A regime a 18 ci saranno tre promozioni, quindi con tre promozioni insomma è una ottima cosa, intanto... poi dopo andando a regime saranno due, intanto quest'anno una piazza importante tra Bologna e Trieste salirà. Appunto, però altre Siena, Fortitudo eccetera rimangono lì dove sono. Aspettiamo un annetto e poi dopo arrivano tutte, e si fa veramente un bel campionato a 18 squadre. Diventiamo vecchi soprattutto io. Ciao Attilio, grazie. Resistiamo, va bene. Ciao, ti abbraccio. Grazie a Attilio Caia, chiudiamo questa puntata del lunedì di Tutti Convocati, ci siamo divertiti. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezza in redazione. A domani alle 2. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!